Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buona domenica, passate a casa ad aspettare. Buona domenica a voi che forse mi stavate aspettando. Magnifico, io aspetto voi sempre, sempre qui con me alla Bufala in tavola. Accomodatevi, c'è posto, portate anche degli amici e anche qualche vostro invitato. Oggi io ho un'invitata a cui tengo modo particolare, la dottoressa Anna Villarini, biologo nutrizionista dell'Istituto dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno, grazie. E dottoressa Villarini, io ho anche un altro invitato. Io non so se invitarlo, se farlo proprio sedere con noi a tavola, tenerlo un po' lontano, farlo uscire dalla porta. Vorrei parlare del glutine. Parliamone, invitiamolo. Lo invitiamo perché io ho invitato la dottoressa Villarini proprio per parlare di glutine. Lei ha dedicato al glutine un libro, Sano e buono senza glutine, Sperling. Dottoressa Villarini, intanto iniziamo a fare una sorta di focus sul glutine, la cui popolarità è cresciuta da quando nei supermercati si vedono prodotti senza glutine. Quindi è qualcosa che c'è ma che si può togliere. Perché? Perché per alcuni diventa pericoloso per la salute. Ci sono persone infatti che hanno un'intolleranza permanente al glutine e il loro numero in aumento sono le persone che sono affette da celiachia. Sì, esatto. Le persone affette da celiachia non possono consumare alimenti che contengono glutine perché questa proteina scatena tutta una serie di reazioni, principalmente a livello intestinale, che ne modificano proprio la conformazione dell'intestino. Quindi, oltre a dare dei disturbi che possono essere diarree, gonfiori intestinali e così via, assorbono anche meno molti nutrienti e quindi creano anche degli stati di malnutrizione. E allora, in quel caso, ad oggi l'unica cura valida per questo tipo di patologia è quella di non consumare alimenti che contengono glutine. Ci sono invece persone che hanno sviluppato una sorta di sensibilità nei confronti di questa proteina, no? Sì, sì, ci sono delle persone che quando consumano alimenti che contengono glutine hanno dei disturbi molto simili alle persone affette da celiachia, però non hanno quella conformazione a livello intestinale, cioè questa modifica dei villi intestinali, la nostra struttura interna, come i celiaci veri e propri. E quindi non è facilmente diagnosticabile, si va per esclusione e si vede a volte allontanando il glutine si riduce la sintomatologia. C'è chi invece, dottoressa Villarini, lei lo sa bene, che taglia la testa al toro e quindi lo toglie dall'alimentazione per moda oppure perché è convinto che faccia dimagrire, perché sì, ha sentito così, perché arrivano dall'America. Questa è un po'... Questa è una bufala, bufala, bufalona, bufaline, perché noi abbiamo anche le ovoline di bufala, perché noi le stiamo cercando. Questa è una bufalona, allora, proprio quella da 500 grammi. Sì, se si vuole dimagrire bisogna adottare dei corretti stili di vita, dei corretti stili alimentari. Non ci sono queste scorciatoie che a volte le persone tendono a trovare. Il glutine di per sé non fa ingrassare, è una proteina tranquillissima che mangiano sia le persone grasse che le persone magre. È vero invece che oggi il glutine è abbastanza studiato in relazione alle patologie autoimmuni come la tiroidite, alcune malattie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, e ci sono dei ricercatori che hanno individuato nel glutine una delle cause che aumentano la sintomatologia negativa, diciamo, la sintomatologia di queste malattie. E allora viene chiesto di ridurne il consumo, non di toglierlo completamente, però certamente non è una strategia per dimagrire. Il libro, il suo libro, è dedicato, ricordo il titolo, Sano e buono senza glutine, è dedicato a tutte quelle persone che, pur non potendo mangiare glutine, desiderano un'alimentazione, quella che piace a me, quella che proponiamo anche noi qua oggi alla domenica, sana, varia e gustosa. Ma il suo libro è anche dedicato a chi vuole sperimentare nuovi sapori, perché la varietà è salute. La varietà è salute. Scegliere, esatto, qualche volta dei cereali con il glutine e altri senza glutine può essere un'occasione anche per sperimentare nuovi sapori, per preparare nuove ricette. Ho visto delle ricettine squisite. Sì, sì, metà libro sono ricette. E volutamente, perché a volte sembra che se si deve obbligatoriamente mangiare senza glutine si deve ricorrere per forza a dei cibi industriali. Invece si possono fare delle preparazioni casalinghe molto buone e per alcuni versi anche più sane. E le persone che invece non sono affette da celiachia o da patologie particolari possono usare queste ricette per integrare la loro alimentazione, perché non dobbiamo guardare solo il glutine, ogni cereale ha una sua particolarità e quindi più ne mangiamo e più variamo la nostra alimentazione, meglio è, con glutine o senza glutine. Ma date un'ideuzza. Allora, adesso stiamo qua, fermi lì perché c'è la pausa, poi ritorniamo subito dopo insieme con la dottoressa Villarini, che ha detto proprio ogni cereale ha le sue specificità, e adesso vogliamo che la dottoressa Villarini ce le racconti, punti di forza, punti di debolezza, come variare, che cosa aggiungere e che cosa mi succede soprattutto, tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta La bufala in tavola. Siamo tornati insieme oggi sulla tavola della bufala in tavola, a capotavolo ho fatto sedere la dottoressa Villarini, perché mi ha stuzzicato un po' la curiosità il suo ultimo libro che parla di glutine. È un tema molto dibattuto, questa proteina divide, è una proteina comunque che continua a far parlare di sé, e che con questo libro invece la dottoressa Villarini pone un po' sulla bilancia della scienza. Quindi il messaggio è: ci sono le persone che hanno un'intolleranza permanente al glutine e quindi non devono mangiare il glutine perché è la dieta la loro terapia. Certo. Per tutte le persone che invece hanno con il glutine un rapporto un po' conflittuale, ecco, diciamo così, dottoressa Villarini, perché c'è chi ha avverte un gonfiore addominale, c'è chi non digerisce bene, c'è chi insomma non sempre le relazioni sono lisce, no? A volte sì, anche non ci basta litigare con il nostro collega, con il vicino, abbiamo anche il glutine da mettere, e in questi casi l'indicazione è ridurre ma anche variare, ridurre, variare o modificare anche il tipo di glutine, perché per esempio oggi troviamo in commercio una serie di prodotti fatti con i grani antichi che hanno un glutine leggermente diverso dei grani moderni e leggermente meno tossico è questo glutine, quindi può essere interessante per chi ha problemi di digestione dei cibi col glutine o avverte gonfiore subito dopo pesantezza, provare anche questi alimenti qua e poi ogni tanto mangiare senza glutine. Quindi non c'è più il glutine di una volta o siamo diventati più sensibili noi? Questa è una bella domanda. La ricerca ci sta lavorando. La Ho capito che siete lavorando. Ancora in alto mare. Sì, si sta lavorando, ma questa impennata di sensibilità al glutine e anche un po' di celiachia che si sta osservando potrebbe anche dipendere dalla modifica che il glutine ha fatto nel corso degli ultimi 70 anni. Però ci si sta ancora studiando. No? La risposta sicura non l'abbiamo. Invece è certo che variando la nostra dieta si arricchisce di gusto, ma anche di salute. Lei nel suo libro parla di cereali. Ci sono dei cereali che hanno il glutine, altri cereali che il glutine non l'hanno, e per cui possiamo, sono quelli che devono entrare nella dieta delle persone celiache. Ma ogni cereale ha un po' le sue proprietà, luci e ombre dei cereali. Ma il cereale senza glutine più conosciuto è il riso. Poi qui siamo in Lombardia. Un bel risotto. Quindi un bel risotto. Tempo, ecco. Eh? Però il problema è che il riso che si usa per fare i risotti è un riso raffinato. E questo è un po' il limite del riso, perché il riso dovremmo mangiarlo integrale. Perché se lo mangio... Allora non mangio il risotto, scusi, io il risotto, come faccio a fare il risotto con il riso integrale? Non ho trovato una ricetta lì. C'è, mamma mia, non la prendo mai in castagna, che tra l'altro è tempo di castagnate. C'è, ma non lo volevo svelare come si fa un risotto con il riso integrale. Però diciamo che c'è un modo, qualche strategia, qualche alchimia che ci permette di avere la cremina che fa l'onda, che si può fare preparata, è un po' oldaniana, ecco. E vengono anche dei buoni risotti, però bisogna provarli un po', perché uno non è abituato a farlo il risotto con il riso integrale. Però sicuramente le fibre del riso integrale non solo riducono l'indice glicemico rispetto al riso raffinato, e noi sappiamo che quando un cibo ci alza troppo la glicemia la salute non fa bene, ma si portano dietro anche delle sostanze interessanti. Ad esempio, nel riso integrale abbiamo la tricina, che è una molecola fortemente antinfiammatoria, quindi è utile a proteggere il nostro intestino proprio dalle infiammazioni che può dare un cibo mal digerito e così via. Quindi è sempre meglio, poi hanno altri nutrienti, hanno delle vitamine in più, dei minerali in più, cioè sempre meglio utilizzare il riso integrale, e anche lì variandolo, perché i risi integrali sono tanti. C'è il riso integrale di tutte le qualità italiane, c'è il riso venere, c'è il riso rosso, c'è il riso selvaggio e così via. Ma quando io vado al supermercato e trovo del riso integrale che si cuoce in modo rapido e non i classici 45 minuti, perché è vero che noi nel frattempo possiamo fare altro, vede che l'ho già bloccata, però si arriva a casa tardi e si vuole mettere in tavola un bel piatto di riso integrale, 45 minuti ti allontano un po' da quest'idea. Ci sono quelle a cottura rapida, hanno le stesse proprietà? Spesso sì, sono risi che hanno avuto una precottura prima di essere di nuovo essiccati e poi messi in vendita, quindi alcune volte si possono perdere delle qualità, però quella tricina lì che mi piace, come si chiama? Tricina. Bello, che ti disinfiamma, è una mano santa per l'intestino. Sì, è una mano santa, fa veramente bene. E comunque io non consiglio di cuocere il riso 45 minuti se arriviamo alle 9 di sera a cena. No. Lì ci vogliono due spaghetti, aglio e olio, peperoncino, dai. No, ma il consiglio è quello di prepararlo casomai la sera prima, perché io lo metto a cuocere mentre guardo la televisione e il giorno dopo semplicemente lo condisco. Quanto è organizzata questa donna! Organizzazione! Oh, è la base. Allora, quindi, e può rimanere in frigorifero i cereali? Quanto si conservano? 2 o 3 giorni chiusi in frigorifero? Io non esagererei, perché poi qualche proprietà si va a perdere, perché con il contatto con l'ossigeno, la luce. Quindi io direi che la cosa migliore è prepararli la sera prima per il giorno dopo, poi un giorno in più possono rimanere. Per la famosa schiscetta, anche Franco Berrino, accanito sostenitore della schiscetta, preparata la sera con i cereali integrali e poi il giorno dopo splendenti. Quindi il riso ci piace, ma soprattutto se integrale, e variare le varie tipologie. Il mais è un altro cereale conosciuto che non contiene glutine, anche questo in Lombardia, la polenta, no? Si fa con la farina di mais. Il problema del mais è che esiste di tante qualità, però in commercio troviamo quasi una sola qualità, che è un ibrido di più specie diverse, e questo ibrido ha un indice glicemico alto, anche se è integrale. Quindi se scegliamo di mangiare il mais, mangiamolo, ma non troppo spesso e comunque sempre integrale. Tra l'altro è il cereale che ha meno proprietà nutrizionali di tutti gli altri, cioè quello che contiene meno vitamine, meno sali minerali, quindi non infatti è la prima quando scelta. Si mangiava, perché si aveva fame, solo polenta, c'era la famosa pellagra. Esatto. Era proprio la malattia tipica, la malattia di chi dei mangiava poveri, solo polenta. Perché mangiavano solamente polenta. Sì, sì. E lì c'era fame vera. Sì, sì, perché lì non si pensava di togliere qualcosa. Adesso c'è la dieta del senza, che è espressione di una società ricca, perché quando c'era poco da mangiare, ecco, il senza veniva già da solo. Comunque chiudo rapidamente questo mio pensiero. Aggiungiamo un altro cereale interessante, che così facciamo contento anche Filippo Aureggi, che regia la parte tecnica e che ringrazio. Il grano saraceno, che però è un simil cereale, non è un vero cereale, e anche se si chiama grano non ha niente, non è parente con il grano che conosciamo tenero e duro. E è un cereale veramente interessante, si presta a fare tante cose, dalle insalate agli spaghetti, le pesce, perché viene lavorato a dare questi formati, alla polenta taragna. E anche forse i pizzoccheri. Anche i pizzoccheri, certo. Allora, dal la sto portando, dottoressa Villarini, in un campo tra minato. Risotto all'onda e pizzoccheri, che insomma si condiscono generosamente con burro e poi formaggio. Sì, si possono però anche fare leggeri. C'è una ricetta nel mio libro di pizzoccheri un po' diversi, dove il burro e il formaggio sono spariti. Questa donna lo dico agli amici che si si siedono intorno a noi a tavola in questa domenica è veramente diabolica, perché non riesce a prenderla mai in castagna. Subito la soluzione: ti fa mangiare di tutto, ma come vuole lei. Sì. E poi e poi che cosa, quale altro cereale mi consiglia, ma con delle proprietà che magari suggeriamo, sottolineiamo per la curiosità dei nostri amici, perché poi ci sono quelli cereali che vanno di moda. Sì, ma andrei su uno di moda, il miglio. Cioè, sta emergendo adesso, perché la quinoa è molto più di moda già. Però il miglio è interessante proprio in questa stagione. Quello degli uccelli, insomma. Quello degli uccelli, sì, sì. È interessante in questa stagione perché è considerato un simil cereale dell'inverno, perché secondo la medicina tradizionale cinese scalda, è un cereale che scalda. Ma la particolarità che invece interessa a me, che interessa penso un po' a tutti, è che contiene una quota proteica importante, specialmente ha quelle proteine, quei minerali che fanno crescere bene i capelli, che rafforzano le unghie e che quindi fanno bene specialmente in un periodo come l'autunno in cui si perdono più capelli. Ragazzi, mangiate il miglio! Nel momento in cui i nostri capelli sono un pochino fragili, le unghie si spezzano. Ma guardate, per questo mi ha aggiungato il miglio. No, però immaginato. Allora migliamoci. Sì. Tra l'altro è un cereale che ci si fa tutto, da piatti salati a piatti dolci, c'è tutto nel libro. Senti, invece qualche... l'ho visto... diabolica donna. Senta, ma invece qualche bufala sui cereali presentati come alimenti veramente, insomma, unici, portentosi, capaci di dare tutto quello che di buono ci si aspetta da qualche chicco? Che cosa mi smaschera? Male non ne possiamo parlare, perché i cereali sono la base, se sono integrali, la base dell'alimentazione di ogni uomo in ogni parte della terra. Però è anche vero che a volte si tende ad assolutizzarli. Per esempio, c'è chi dice quel cereale lì contiene tante proteine quasi come la carne. No, queste cose qui non sono vere. Il cereale deve essere sempre abbinato ad altro, perché sennò di per sé qualunque cereale, anche quello più ricco di nutrienti, ci manda in carenza di qualcosa. Hanno proteine a basso valore biologico, però appena unisco un cereale con un legume, ecco che ottengo un piatto che è ad alto valore biologico. Allora quel piatto diventa simile alla carne o al pesce, ma di per sé separato no. In coppia, in l'unione. I cereali sono nati e cresciuti e arrivano sulle nostre tavole per sposarsi. Sì, è vero. Vero? Non sono singoli i cereali. No, devono andare sempre in coppia, sempre in ogni piatto dovremmo avere un po' di cereale integrale, lo dice anche la ricerca per la prevenzione delle grandi patologie, sempre cereali integrali e legumi insieme. Sono un po' come il prezzemolo, sì. Perché devono essere, sono presenti un po' dal mattino, dalla colazione, poi li mangiamo a pranzo, poi li ritroviamo a cena in forme diverse. In forme diverse, c'è la pasta, c'è il pane, ci sono le gallette, cioè le forme sono veramente tante. Lei, ad esempio, per il pane varia se lo fa da solo, che farina utilizza? Io lo faccio da sola, per lo più. Una donna da sposare, ma mi fermo qui perché devo andare a fare la pausa. Voi intanto continuate a mangiare e noi torniamo. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio. Ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio. Dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12, su Radio 24. La bufala in tavola. Vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso, e Siamo tornati, voi siete arrivati, si è aggiunto qualcuno, battete un colpo, potete mandarmi un messaggio al 349-238-6666 o un WhatsApp, potete scrivermi alla bufala in tavola. Oggi accanto a me, l'ho messa a capotavola, la dottoressa Villarini, l'ho messa a capotavola perché l'ho invitata, un po' il nostro ospite d'onore, con lei abbiamo parlato nella prima parte del nostro pranzo, non è ancora finito, a che punto siamo? Diciamo un po' un antipasto, dai. Sì, beh. Sì. Più o meno, più qua o abbiamo meno. Parlato tanto e mangiato poco. La dottoressa Villarini, biologo nutrizionista dell'Istituto Tumori di Milano, che ha pensato di scrivere un libro che è interessante, ci sono anche delle ricette molto interessanti, sano e buono senza glutine, proprio per fare un po' chiarezza su questa proteina che è finita sempre negli ultimi tempi sul banco degli imputati, accusata di fare tutta una serie di danni, per cui ci sono sempre più persone che la eliminano pur non avendo nei confronti del glutine un'intolleranza permanente, cioè non essendo celiaci, ma avendo magari una sensibilità al glutine, o invece si fa per moda, per sentito dire, perché no, per provare. Dottoressa Villarini, abbiamo mangiato poco, ma stavamo parlando di pane. Lei lo prepara a casa? C'è anche la ricetta? Sì, no, in questo libro no, non quello che faccio io. Ma perché io uso il glutine, cioè uso le farine con il glutine. Io faccio metà semola di grano duro e metà farina integrale e panifico con ovviamente... pasta madre, perché stava a dirla la pasta madre, che poi qua c'è veramente un sì, ma la lievitazione lenta non solo aromatizza il pane, ma fa sì anche che, cioè, permette anche di estrarre tutti i nutrienti che stanno nelle farine integrali, quindi è allora la cosa con migliore. Questo buon profumino di pane io saluto un amico, il dottor Filippo Ongaro, direttore scientifico dell'Istituto di Medicina Rigenerativa Anti-Aging Ismerian. Buongiorno. Buongiorno Anna. Le ho fatto trovare buongiorno. Questo pane, lei se lo immagini croccante appena fuori dal forno, bello caldo, che si piazza buonissimo. Subito, caldo e magnifico, però non lo digerisci mai. E abbiamo chiamato come la focaccia, che buona la focaccia calda. Io vorrei dedicare una puntata alla focaccia, ma chiamerò anche naturalmente il nostro grande Oldani. Va bene, allora dottor Ongaro, l'abbiamo chiamata perché vogliamo aprire con lei il nostro spazio del vero e falso, perché andiamo a caccia di bufale, a caccia di fake news. Tra l'altro è un tema particolarmente caldo questa settimana, dato che il Nobel dell'economia è andato a Richard Thaler, l'economista psicologo, pensate, che ha spiegato perché crediamo alle notizie false in campo economico, segno che quello delle fake news è un tema caldo indipendentemente dagli ambiti. Noi naturalmente parliamo delle fake news nel campo della dieta, dell'alimentazione. Avevamo anche invitato Andrea Fontana, vi ricordate, nei giorni, nelle puntate precedenti, un sociologo della comunicazione che alle fake news ha dedicato proprio un libro molto interessante, e ci aveva spiegato perché, nonostante il buon senso ci dica che non sono vere, a noi piace credere a queste bufale perché ci gratificano, ci mettono un po' tranquilli, ci coccolano e insomma fanno parte, così aveva detto Andrea Fontana, della nostra dieta culturale. E una delle bufale che è proprio più dure a morire, direi la capostipite delle bufale, è l'ananas. Dottor Ongaro, l'ananas brucia le calorie a fine pasto, così dopo un bel piatto di pizzoccheri, dopo un secondo abbondante cacciagione, libagioni eccetera, Filippo, l'altro, il mio amico al di là del vetro, magari si mangia due fette di ananas, non credo, per bruciare i grassi o le calorie. Magari se lo scopo è quello, mi sa che casca male. Certamente ci può essere un'associazione con una sensazione di maggior leggerezza legata al fatto che comunque l'ananas contiene la bromelina, che è un enzima proteolitico e quindi aiuta la digestione, allora magari ti dà questa impressione che quello che hai mangiato ti causi meno pesantezza, ma indubbiamente non farà bruciare più calorie. La bromelina ha anche un'azione antinfiammatoria, quindi nulla contro l'ananas come diciamo alimento che può essere utile e, sia per la digestione appunto che per le proprietà infiammatorie, però quando si prova a ragionare su un alimento che favorisce il bruciare le calorie, lì si esce sempre fuori pista, francamente. Bisogna rassegnarsi all'idea che per dimagrire bisogna mangiare un po' meno e muoversi di più, e ahimè lì ci sono poche eccezioni a questa regola, insomma. Però fa un po' digerire l'ananas, fa un po' digerire, specialmente se abbiamo mangiato abbondanza di cibi proteici, proprio per questo enzima che diceva Filippo, sì, che ha un nome difficile, come mi ha detto, bromelina, no, mi ha detto un proteolitico che sembra un po' paleolitico, ma invece scioglie le proteine, fa la lisi delle proteine, le rompe, Ma quanto siamo intelligenti, cosa abbiamo mangiato, che cereale abbiamo mangiato, dottoressa Villarini, per essere così acute? Ma tutti, abbiamo fatto una varietà nell'ultima settimana. Ma ditemi un po' voi che sapete, la frutta fine pasto si è bene consumarla oppure fa venire il gonfiore? Chiedo prima ad Anna Villarini e poi sentiamo il dottor Ongaro, magari la pensate in modo diverso. Magari sì, non lo so. Allora, la frutta a fine pasto, dato che si mette in coda tutti gli alimenti e arriva a essere digerita lentamente, tende a fermentare un po' e quindi può dare gonfiore. Poi ci sono persone più sensibili e meno sensibili a questo e quindi alcune persone che non hanno problemi di gonfiore se la possono anche mangiare, le altre gliela toglierei. Dottor Ongaro? Sì, sono totalmente d'accordo, nel senso che nella mia esperienza è piuttosto soggettivo, però teoricamente l'effetto potrebbe essere quello, quindi io in genere la preferisco come snack, la frutta, lontano dai pasti piuttosto che a fine pasto. Distributrici di bufale le nostre mamme, sapendo, perché ci hanno fatto mangiare piattoni di spinaci dicendoci che ci facevano venire i muscoli, soprattutto chissà, il dottor Ongaro, sua mamma gli avrà detto: Filippo, mangia gli spinaci che diventi forte, Sì o no, ci è caduta anche lei, Ci siamo cascati, poi ho capito che ci voleva altro per rafforzare i muscoli. Sempre comunque gli spinaci va sempre bene, hanno altri effetti magari, ma... No. Senti, tra l'altro gli spinaci che sono finiti un po' nell'occhio del ciclone per l'attualità, ma tutto si è stato chiarito. Io voglio sapere se è vero che gli spinaci sono ricchi di ferro, e i muscoli abbiamo capito che non li fanno venire, ma quanto al ferro, dottor Ongaro? I muscoli non li fa venire, anche perché non c'entra comunque molto il ferro con i muscoli di per sé. In più devo dire che gli spinaci sì, non sono come posso dire, non hanno un contenuto particolarmente elevato di ferro, e c'è anche da dire che nulla non toglie nulla all'utilità del ferro di origine vegetale, ma indubbiamente la biodisponibilità del ferro di origine animale è estremamente più alta, e quindi la risposta sarebbe: non c'entra granché con i muscoli, vanno mangiati perché sono verdure, hanno altre proprietà, e non è nemmeno tanto connesso con il discorso del ferro, insomma. Dottor Ongaro, ma se io metto un po' di limone, il poco ferro degli spinaci, in genere adesso parliamo di spinaci, ma non saranno solo gli spinaci a contenere del ferro vegetale, ce ne sono altri prodotti, dottoressa Villarini? Ma sì, ci sono tantissime verdure, specialmente le verdure verdi. A foglia verde. Sì, contengono se ferro. Se io metto il limone, questo ferro ne prendo di più, insomma diventa più biodisponibile, come dice il dottor Ongaro? Certo, perché è la vitamina C e anche altre sostanze, anche l'acido citrico, che mi facilita l'assorbimento del ferro. Però volevo raccontare una curiosità velocissima. Sì. Il mito di braccio di ferro nasce dal fatto che c'è stato un errore di trascrizione in un articolo scientifico sul contenuto di ferro nelle spinaci. Hanno sbagliato a scrivere il numero, era un numero molto più alto. E quindi da questo articolo, che aveva fatto un grande scalpore, nasce il mito di braccio di ferro, e poi nessuno sapeva più come dire: guardate, non è vero, tutto quel ferro dentro non c'è. Vedi che si sbaglia. Dottor Ongaro? Beh, ogni tanto si sbagliano, sì. Dai, l'importante è che poi la verità venga a galla, è un po' quello che vogliamo fare con questo programma. Raccontarvi un po' che cosa dice la scienza su molti alimenti, molti prodotti, anche molte abitudini e comportamenti alimentari, per gustarci il cibo e per trarre dal cibo tutto quello che è utile per fare salute. Dottor Ongaro, il limone, torniamo al limone. Si dice che il limone disinfetti i frutti di mare e il pesce in genere. Parlo di pesce crudo. Ma io anche là sarei molto attento a utilizzare il termine disinfetta, perché non mi fiderei minimamente di questo, di questa azione, no? Cioè non è un'azione disinfettante, quindi la mia risposta sarebbe assolutamente non fidarsi. Però invitiamo il pesce sempre senza o con limone più spesso nelle nostre tavole. Sì. Lo abbiniamo magari anche a qualche cereale. Sì, sì, sì. Il pesce è un alimento che fa benissimo e anche il pesce crudo dal punto di vista nutrizionale mantiene più inalterate le sue proprietà, però dobbiamo stare molto attenti perché il pesce crudo è anche veicolo appunto di tante problematiche e tossinfezioni. E allora adesso noi sappiamo che alcuni tipi di pesce vanno surgelati 24 ore per abbattere dei piccoli parassiti. Infatti abbattuto e non con una spruzzatina di limone, perché non sarebbe sufficiente. Poi un risotto con il pesce abbinando cereale e pesce, io me lo farei. Dottor Ongaro, verrebbe anche lei a mangiarsi un risottino con pesce? Poi cereale integrale ancora meglio, no? Solamente col cereale integrale. Come siete proprio. Io mangio anche quello non integrale. Dai, un risottino normale io me lo mangio. Ma dottor Ongaro, prima di salutarla torniamo ai muscoli. Ecco, per una, abbiamo capito che sullo spinacio il muscolo non lo fa venire, però nella dieta delle persone che fanno attività per potenziare la massa muscolare ci piace il pesce? Se ci piace il pesce, molto. Assolutamente, perché se dobbiamo stare attenti al quantitativo di carne, in particolare di carne rossa che mangiamo, è chiaro che diciamo il range, la tipologia di proteine che possiamo ingerire non è poi così ampia e il pesce è sicuramente una di quelle proteine da privilegiare nell'atleta, così come nella persona normale, ma a quantitativi ovviamente differenti e corretti per peso corporeo. E poi bisogna fare fatica, insomma, perché per aumentare la massa muscolare lì non ci sono libri che tengono, bisogna mettersi lì e lavorare. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Buona giornata. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo di nuovo insieme. A tra poco. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio www.radiomaster.ilsole24ore.com. La bufala in tavola. Senti come mangio. Ah, senti come mangio. Oggi parliamo di sale iodato e in linea con noi ho invitato la professoressa Laura Fugazzola, professore di endocrinologia all'Università di Milano e responsabile del centro tiroide dell'Istituto Oxologico Italiano. Buongiorno. Buongiorno, ciao Nicoletta, buona domenica a tutti. Grazie, buona domenica. Noi la disturbiamo anche di domenica perché vogliamo vederci chiaro. Intanto che siamo qua a mangiucchiare un po' con la dottoressa Villarini, glutine sì, glutine no, e a smascherare le bufale, siamo arrivate al sale, il sale iodato. Iniziamo a fare una sorta di carta d'identità, professoressa Fugazzola, di questo sale. Allora, il sale iodato è un elemento assolutamente fondamentale. Dal 2005 è entrata in vigore una legge che rende obbligatoria la vendita di sale addizionato di iodio. Quindi sia il sale fine che il sale grosso, che noi dobbiamo assolutamente consumare, è addizionato della giusta quantità di iodio, cioè della quantità di iodio che è necessaria perché noi raggiungiamo il fabbisogno giornaliero ideale. che in realtà riusciamo a raggiungere appena appena, quindi è assolutamente fondamentale che noi utilizziamo questo sale. Ma professoressa, è l'unico tipo di sale in grado di fornire la giusta quantità di iodio? Penso, non so, il sale marino integrale ad esempio, o quello rosa dell'Himalaya, mi sembra anche molto elegante, non hanno le stesse proprietà, dobbiamo usare proprio quello iodato e deve esserci scritto iodato sulla confezione? Assolutamente sì, perché lo iodio, il problema è che lo iodio è un elemento molto volatile e quindi il mare contiene molto iodio, ma questo iodio evapora, quindi quando viene estratto il sale viene fatta evaporare l'acqua nelle saline e quindi rimane sale assolutamente povero di iodio, quasi privo di iodio, e quindi il sale dell'Himalaya, tutti i vari sali integrali non contengono iodio assolutamente, quindi bisogna utilizzare il sale addizionato di iodio con scritto iodato sopra. Professoressa, a proposito di iodio e anche di false credenze, lo iodio si deve quindi aggiungere, non si può respirare? Chi vive vicino al mare, ad esempio, che è così fortunato, deve ugualmente ricorrere al sale iodato oppure basterebbe una passeggiata quotidiana sulla battigia o in riva al mare? Allora, la passeggiata sulla battigia va benissimo, ma non al nostro scopo, perché proprio perché lo iodio è volatile, noi lo respiriamo, ma il nostro albero respiratorio non è in grado di assorbirlo, solamente il tratto gastroenterico è in grado di assorbire lo iodio, quindi noi lo dobbiamo mangiare, non respirare. Ma dobbiamo mangiarne poco, poco ma iodato, questa ma è la raccomandazione dei medici per sopperire alla carenza di iodio, questo elemento che è il costituente fondamentale degli ormoni tiroidei che svolgono, lo abbiamo raccontato tante volte professoressa Fugazzolo, un ruolo fondamentale in tutte le fasi di crescita e di sviluppo, anche in genere nel mantenimento dell'equilibrio metabolico, nella vita adulta come per i bambini, quindi sale iodato dato per tutti, anche in gravidanza. Soprattutto in gravidanza. L'avevo buttata lì, ma ero preparata. Mi dà l'occasione per parlare di questa cosa fondamentale, perché in gravidanza, nei primi mesi di gravidanza, 4-5 mesi, la tiroide fetale non è ancora funzionante, quindi la mamma deve provvedere all'ormone tiroideo del nascituro, cosa che è fondamentale per il suo accrescimento psicofisico, veramente fondamentale. Quindi la mamma deve essere in grado di produrre un'adeguata quantità di ormone tiroideo. Per farlo, siccome ne deve produrre proprio di più, ha bisogno di più iodio e infatti il fabbisogno per la donna in gravidanza passa da 150 microgrammi al giorno a 200, anche 250 microgrammi al giorno. A quel punto il sale iodato non basta più e quindi serve una integrazione di iodio con l'assunzione, per esempio, in molti di questi preparati che contengono varie vitamine che vengono dati durante la gravidanza, per fortuna adesso è sempre incluso anche lo iodio, però è importante controllare che ci sia anche questa aggiunta di iodio durante la gravidanza e l'allattamento. Abbiamo servito anche le mamme in attesa, perfetto. Alla bufala in tavola ci rivolgiamo a tutte, grandi e piccine, anche alle mamme con pancia. Professoressa Fugazzola, quindi no iodio, no ormoni tiroidei, e senza iodio nel sangue la tiroide non fa ormoni tiroidei e quindi corriamo dei rischi. Sì, esatto. Questa è un po' la sostanza. Se noi abbiamo poco iodio, la tiroide poi deve sforzarsi di più per produrre la giusta quantità di ormone tiroideo e nel fare questo sforzo viene sovrastimolata e può sviluppare noduli e gozzo, quindi il può gozzo diventare più grosso e formare noduli. Quindi la vera possibilità di prevenire il gozzo sta nel sale iodato. Un ultimo consiglio per lo spazio di Senti come mangio, ci sono delle attenzioni nell'utilizzo del sale iodato, nella sua conservazione, oltre che la raccomandazione per tutti, non è che perché iodato e quindi contiene lo iodio devo abusarne, i pizzichi sono sempre pochi, noi diciamo sempre qualche pizzico in meno, tanta salute in più, professoressa Fugazzola, abbiamo anche coniato questo sloganino. No, assolutamente d'accordo. Il sale deve essere utilizzato nella giusta quantità, nella minima quantità necessaria. È importante la conservazione proprio per quello che dicevamo della volatilità dell'elemento. Quindi quando apriamo la scatola di cartone del sale grosso e del sale fino, dopo chiudiamo bene, magari con uno scotch, per evitare la evaporazione, appunto, ecco. Proprio quindi sbaglio devono tutto. Essere sempre confezioni chiuse, quelle del sale, possibilmente, per evitare che lo iodio se ne vada. Io più parlo con i miei esperti, più capisco che sbaglio quasi tutto. Vabbè, però dai, raddrizzerò il tiro. Adesso vado a casa, chiudo la scatoletta del sale. Meglio crudo o anche cotto funziona? Cioè, nell'acqua in ebollizione ha senso, ma tanto lo buttiamo lo stesso. Sì, lo buttiamo lo stesso, anche se durante ovviamente la preparazione della pasta molto dello iodio evapora, però nonostante questo è un calcolo che è stato fatto, quindi deve essere usato anche il sale grosso iodato per salare la pasta. Allora, molti dei nostri amici staranno proprio per buzzare la pasta. Professoressa Fugazzola, lascio anche lei, la saluto, così si accomoderà anche lei per il pranzo della domenica. Le auguro una buonissima domenica e spero di ritrovarla presto qui a Radio 24. Grazie mille, grazie Nicoletta, buona domenica. Buona domenica. Buona domenica anche alla nostra ospite d'onore, alla dottoressa Villarini, con cui ne abbiamo dette fatte tante questa domenica. Adesso noi due andiamo a mangiare? Certamente. Che cosa mangeremo? Ma un piatto di pasta? Un piatto di pasta, perché no? Proprio parlando di glutine, no? Allora, buona domenica a tutti, un saluto da Nicoletta, noi ci sentiamo domani come sempre alle 12, quando scocca l'ora della salute, obiettivo salute, poi in video e poi insomma, ecco, buona giornata dalla vostra salutare ossessione quotidiana, state bene.